Grazie Mario. Anche io sono il suo testimone di nozze. Ci siamo scambiati così se no andrà benissimo. Ci aiuteremo a dire che deve andare benissimo. Giusto Nella? Giusto Amo? Amen. Mia moglie conferma. Si stava preoccupando che dicessi qualcosa. Ci troviamo ora qui con Roberto che sta sistemando la lavagna. Facciamo un applauso a Roberto, che si è mimetizzato per non farsi vedere, però io poi lo metto sempre allo spot, no? Ci troviamo nel 61 dopo la morte e resurrezione di Gesù Cristo e ci troviamo a Roma. Siete con me? 61 anni dopo che Gesù è risorto a Roma e troviamo Paolo. Paolo che è stato imprigionato, si trova agli arresti domiciliari per la sua prima volta imprigionato a Roma e in questo frangente lui scrive una lettera ai Filippesi che voglio iniziare a leggere con voi dal capitolo 2 al verso 19. Vedete cosa dice Paolo? Ora spero nel Signore di mandarvi presto Timoteo per essere pure io incoraggiato nel ricevere vostre notizie. Sentite cosa dice adesso. Infatti non ho nessuno di animo pari al suo che abbia sinceramente a cuore quello che vi concerne. Bellissimo! Poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù. Voi sapete che Egli ha dato buona prova di sé, perché ha servito con me la causa del Vangelo come un figlio con il proprio padre. Spero dunque di mandarvelo appena avrò visto come andrà a finire la mia situazione, ma ho fiducia nel Signore di poter venire presto anche io. Questa sera capiremo insieme, e per chi ci segue online, in qualsiasi ora del giorno tu ci stai guardando, che cosa ha portato Paolo a considerare Timoteo, come lui scrive anche nella prima lettera a Timoteo, capitolo 1, verso 2, suo legittimo figlio nella fede. Bellissimo! E capiremo anche come mai Timoteo sia diventato il più stretto collaboratore di Paolo, a partire da un certo punto della sua vita in poi. Sapete, lui lo ha affiancato, Timoteo ha affiancato Paolo, nei suoi viaggi missionari attraverso la Macedonia, l'Acaia, durante la fondazione della Chiesa in Efeso, e poi da Efeso, nuovamente attraverso la Macedonia, fino a Corinto, poi attraverso tutta l'Asia Minore, fino a Gerusalemme, e durante il suo primo imprigionamento a Roma, nella lettera di cui stavamo leggendo, Timoteo era con Paolo. Come se questo non bastasse, pensate che Paolo cita Timoteo come mittente, insieme con lui, della seconda lettera ai Corinzi, della lettera ai Filippesi, della lettera ai Colossesi, della prima e della seconda lettera ai Tessalonicesi e della lettera a Filemone. E lo stesso Paolo, nel suo secondo imprigionamento a Roma, in fin di vita, scrive la seconda lettera a Timoteo e al capitolo 4, versi 9 e 21, gli ripete due volte «Vieni presto, vieni prima dell'inverno». Ora, come se questo non bastasse, Timoteo, e ho una slide sopra per farvi seguire un po' la ricerca che ho fatto, Timoteo fu nominato responsabile della chiesa in Efeso, e vedete il riferimento da dove lo leggiamo, e fu mandato da Paolo come suo rappresentante nelle chiese di Corinto, di Tessalonica e di Filippi. Come diremmo noi a Bari, a Schutfort, è vero? E la mano trema un po', a Schutfort. Cioè, io credo che da quello che abbiamo visto, la vita di Timoteo era proprio l'esempio di che cosa significa che la storia della vita di una persona può passare di gloria in gloria. È vero? Sono convinto che a un certo punto lui abbia fatto sue le parole che il pastore ci ha lanciato come sfida quest'anno. Che cosa ci ha detto il pastore? Qual è stata la visione che ci ha lanciato? Io credo che a un certo punto Timoteo abbia iniziato a dire a se stesso: ok, Timoteo, ora il Signore è lo Spirito, giusto? E dove c'è lo Spirito del Signore? Lì c'è libertà. Quindi questo che cosa significa? Che io, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, posso essere trasformato nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. È vero? E io sono convinto che questo è qualcosa che noi possiamo afferrare per noi, che questo è qualcosa che dobbiamo prendere, perché siamo già arrivati a giugno, l'estate è esplosa, quindi siamo a metà del percorso entro dicembre dobbiamo iniziare, no, ad afferrare questo gloria in gloria, se no poi scade, no, come il latte, che non è a lunga conservazione. Il titolo del messaggio di questa sera è Level Up. E prego la regia di mandare un video. Quanti erano fan di Super Mario? Level Up! E poi arriva la bandierina e il castello esplode. Se vogliamo che la storia della nostra vita passi di gloria in gloria, dobbiamo superare il livello dove ci troviamo e passare al livello successivo. Abbiamo bisogno di un level up. E ce l'ho scritto, dato che è un po' in inglese, per quelli che poi dicono parli sempre in inglese. Cosa accade quando abbiamo un level up? Che nuove abilità vengono sbloccate, è vero? Cioè, fino a quel punto potevi fare delle cose, quando poi passi al livello successivo ci sono tutta una serie di abilità che vengono sbloccate e sei reso capace di fare di più, di fare cose diverse. Che cos'altro accade? Il nostro talento, la nostra capacità viene sperimentata, perché c'è un livello successivo dove noi dobbiamo andare avanti. Nuovi doni vengono rilasciati. Nuovi doni vengono rilasciati sulla nostra vita. E magari prima avevamo timore di pregare per la guarigione, e ora invece abbiamo coraggio. E diciamo, ok, sono in fila alla posta, c'è questa persona che non sta bene, io pregherò. E dirò, vuoi che prego per te? E vuoi vedere che quella persona ti dice di sì. Non lo so quanti di voi hanno provato a chiedere a qualcuno, vuoi che prego per te perché non stai bene? E quella persona ti ha detto di no. Pochissime. Secondo me la maggior parte direbbe tutte di sì. Che cosa accade quando abbiamo un level up? Che abbiamo accesso a nuovi territori che prima non potevamo accedere. A nuovi territori inesplorati, nuove conquiste da fare. E sapete qual è la verità? Con Dio c'è sempre un level up. Con Dio c'è sempre un level up, nessuno di noi è esente ed escluso da questo, perché la storia della tua vita non è da meno della storia della vita di qualcun altro. La storia della tua vita non è da meno della storia di qualcun altro, quindi smettila di darti un game over dove Dio ha preparato un level up per te. Con Dio c'è sempre un level up. Gesù ha sempre un level up per te e mai un game over. Sapete perché? Perché un game over Gesù lo ha dato e l'ha dato al diavolo una volta e per sempre, quando è risorto dalla morte e ha vinto il peccato e ha vinto ogni cosa che ci tiene legati. E questo ci deve far esplodere e ci deve far non lo so che cosa fa a voi, però a me mi fa venire tipo un trimuizio. Ok, sto esagerando. Cosa è successo quindi a Timoteo? Cosa è successo a Timoteo a un certo punto della sua vita per permettere alla sua storia di passare di gloria in gloria e vivere un level up costante? Questo è quello che vogliamo andare a vedere. E lo andiamo a vedere subito continuando a leggere Atti 16. L'ultima volta ci siamo lasciati con Atti 16 e in maniera intenzionale io ho tralasciato i primi versi del capitolo perché avrei voluto leggerli oggi con voi. E che cosa accade? C'è Paolo nel suo secondo viaggio missionario e vediamo quello che accade. Quando Paolo giunse anche a Derba e a Listra, là c'era un discepolo di nome Timoteo, figlio di una donna ebrea credente ma di padre greco. Questo ci ritornerà interessante dopo, ricordatevelo. Di lui rendevano buona testimonianza i fratelli che erano a Listra e a Iconio. Paolo volle che egli partisse con lui, perciò lo prese e lo circoncise a casa dei giudei. No, aspettate, ho sbagliato a scrivere. Lo leggo da qui. Allora, dal verso 3 e alla quarta riga, ci siete? Siete con me? Scusatemi. Paolo volle che egli partisse con lui, perciò lo prese e lo circoncise a causa dei giudei che erano in quei luoghi. Cioè, C'è un errore, secondo me, perché non so se voi vi ricordate, ma due episodi fa, al capitolo 15 di Atti degli Apostoli, durante la conferenza di Gerusalemme, noi avevamo visto come non era più necessario che nessun uomo si circoncidesse per essere salvato. Vi ricordate? Ora facciamo un recap. Ora facciamo un... ci rinfreschiamo la mente. Un attimo solo, abbiate pazienza. Questo non era previsto. Eccoci qui. Ci siete? Siete con me? In tre minuti vi spiegherò tutto quello che è accaduto alla conferenza di Gerusalemme. Ci credete? Voi sapete che al P3 abbiamo predicato il Vangelo in tre minuti, con preghiera di salvezza, appello e tutto quanto. Quindi ce la possiamo fare. Pronti? Allacciate le cinture? Allora abbiamo Dio Padre, Figlio e Spirito Santo che ha creato l'umanità. E a un certo punto nella storia dell'umanità Dio ha scelto per fede Abramo. E ha detto ad Abramo, in te saranno benedette tutte le famiglie della terra e attraverso di te io costituirò un popolo, una nazione, e questo popolo sarà il mio popolo che dimostrerà a tutti gli altri popoli che sono sulla faccia della terra che cosa significa che c'è un Dio che è un creatore, che è un padre, che ci ama, e voi avrete un segno su di voi che sarà riconoscibile, sarà la vostra identità e sarà la circoncisione. E c'è tutta una spiegazione anche medica e scientifica su questo, che lasciamo alla predica che abbiamo fatto tanto tempo fa. Ma nel 1896, prima che Gesù arrivasse e nascesse, c'è Abramo che circoncide Isacco. E la circoncisione diventa l'identità del popolo di Israele, degli ebrei, diventa importantissima. E poi Dio dice, io darò delle leggi a Mosè, e queste leggi serviranno a spiegare al popolo e a tutti gli altri popoli che cosa significa vivere sotto un Dio che ci ama, sotto un Dio che ci dà grazia, sotto un Dio che ci protegge. E voi sarete un esempio e sarete la testimonianza davanti a tutti quanti di che cosa significa che io sono il Dio che ha creato il cielo e la terra. E a un certo punto lui dice, io vi manderò un Messia e lui verrà da voi e costituirà un nuovo regno dove non ci sarà più odio, dove non ci sarà più dolore, perché lui porterà un cambiamento. E Gesù il figlio scende, ebreo, circonciso, vive, muore, si sacrifica per noi, risorge, torna al Padre e manda lo Spirito Santo. Che cosa accade? Atti 2, il giorno della Pentecoste, Pietro con gli 11 si alza in piedi, testimonia, predica e 3.000 persone si convertono. 3.000 ebrei convertiti al cristianesimo e nasce la Chiesa. E la Chiesa inizia a crescere e si espande perché non può rimanere solo a Gerusalemme, ma deve andare in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. E che cosa accade? A un certo punto Pietro si trova a casa di Cornelio, che non c'entrava niente con il popolo di Israele, che non era un ebreo, ma che era uno straniero. E mentre sta parlando di Gesù a Cornelio, lo Spirito Santo scende. Lo Spirito Santo scende nella vita di Cornelio e lo sceglie per fede, così come Dio aveva scelto Abramo per fede. E Cornelio è il primo straniero convertito al cristianesimo. Gli italiani sempre in mezzo stanno a dare fastidio, sempre in mezzo, sapete perché? Perché poi giustamente gli ebrei hanno detto, ma come? Sono millenni che stiamo così e noi ci circoncidiamo e non guardare la donna ad altri e non desiderare le cose degli altri e tutte queste cose che noi sappiamo, e mo arrivano questi che sono pagani, idolatri, che vivono nella promiscuità sessuale, che non sono circoncisi e devono stare insieme a noi. Ahuè, e che siamo fessi. E che cosa decide la conferenza di Gerusalemme? Decide che e quindi loro, scusatemi, per un po' rivendicarsi, gli ebrei dicono, ok, vogliono stare con noi in chiesa, seduti vicino a me? Si deve circoncidere. Beh, deve soffrire, come io ho sofferto. Cosa decide la conferenza di Gerusalemme? Che non c'è bisogno della circoncisione della carne, perché quello che ci salva è la circoncisione del cuore. È lo Spirito Santo che attesta che siamo figli di Dio. E noi possiamo essere di qualsiasi popolo, di qualsiasi nazione, di qualsiasi tribù, ma lo Spirito Santo si rivela in noi e testimonia e attesta che noi siamo figli di Dio e siamo parte della famiglia. Era la circoncisione del cuore che rendeva cristiani e non la circoncisione della carne. E quindi, capite bene, tutto questo, capitolo 15, capitolo 16, neanche inizia e Timoteo si deve circoncidere. Cioè, se io fossi stato Timoteo e Listra fosse stato a Bari, io avrei detto a Paolo, questo per chi ci segue online è un po' un francesismo barese, ma c'è da aver. cioè ad aver fatto. Voi immaginatevi la madre di Timoteo. Pensate che Timoteo ha 15 anni, quindi era un adolescente. Immaginate questa madre. Com'è? Anche questo è francesismo. Uso cresciut. E in questo senso intendeva, io mi sono presa cura di mio figlio, nonostante quel marito greco che mi sono trovato, me lo diceva mia madre, moglie buoi dei paesi tuoi, no, io quello greco volevo. E vabbè, me lo sono cresciuta, il bambino mio mi devono circoncidere. Noi ridiamo, ma quello che Paolo aveva chiesto a Timoteo non era qualcosa da poco. E sapete qual è la verità? Che molto spesso la circoncisione del tuo cuore deve passare attraverso la circoncisione della tua carne. Molto spesso la circoncisione del tuo cuore deve passare attraverso la circoncisione della tua carne, perché c'è qualcosa che devi necessariamente tagliare se vuoi contemplare a viso scoperto la gloria del Signore e vuoi essere trasformato nella sua gloria, nella sua grazia, nella sua immagine, passo dopo passo, vivendo quel livello che Lui ha preparato per te. La domanda per noi stasera è, perché tutto questo non è che ce lo lasciamo a Timoteo, giusto? Sennò che siamo venuti a fare? Che ci stiamo guardando a fare il video? La domanda per me e per te stasera è, cosa dobbiamo tagliare per permettere alla storia della nostra vita di passare di gloria in gloria e vivere quel level up costante? Io ho individuato tre aspetti: il peccato, l'egoismo e l'idolatria. Iniziamo subito, siete pronti? Vivere level up, punto numero uno. Fuggi il peccato e rifugiati in Dio. Fuggi il peccato e rifugiati in Dio. Sapete, la Bibbia, quando la leggiamo, giusto? Quando la leggiamo, ci insegna qualcosa. E ce lo insegna non solo quando l'ascoltiamo, da qualcuno che ce la spiega, ma ci insegna qualcosa soprattutto quando la leggiamo, quando siamo noi che l'apriamo e lo Spirito Santo ci parla. E quando noi apriamo la Bibbia ci insegna che dobbiamo fuggire il peccato e resistere al diavolo, perché egli fuggirà da noi. E questo esattamente si trova 1 Corinzi 6,18 e Giacomo 4,7. Anche Genesi, nel capitolo 39, ci racconta la storia di Giuseppe, che si trovava a servire Potifar, e la moglie di Potifar, che era il suo capo, aveva deciso che voleva andare a letto con lui. E ha iniziato a corteggiarlo spudoratamente, fino a quando lui a un certo punto è scappato. Pensate, è scappato così velocemente che la moglie di Potifar è rimasta con i vestiti in mano. Sapete qual è la verità? Che molto spesso noi facciamo il contrario. Cioè noi vogliamo resistere al peccato e alla tentazione. E poi il risultato che otteniamo non è proprio quello che ci speravamo, che ci aspettavamo di ottenere. E scappiamo davanti al diavolo perché abbiamo paura. E viviamo un po' come, sai, quelle persone che si sentono un po' sempre perseguitate dalla cattiva sorte. Che mai una cosa buona succede a me. Mai una gioia. C'è pure l'hashtag, è vero? E viviamo così, perché scappiamo dal peccato, scusatemi, scappiamo dal diavolo, e non sappiamo che invece è Dio che lo farà scappare e noi dobbiamo solo resistergli. E non fuggiamo dal peccato, ma gli vogliamo resistere. Non sei tu che puoi vincere il peccato. Non sei tu che puoi vincere il peccato. È Gesù che ha vinto il peccato per te. Tu puoi rifugiarti in Lui. Tu puoi rifugiarti nella vittoria che Gesù ha conquistato per te. Sapete cosa mi ha detto Gesù a un certo punto? Ogni tanto me lo ripete, perché ho bisogno di sentirmelo dire. Ma perché continui a darti un game over nella tua solitudine inesistente? Te ne vai là, fai quello che sta solo, come Calimero, che nessuno vuole, ti piangi addosso perché sei brutto e sei nero e sei piccolo. Perché fai così? Perché ti dai da perdente da solo? Se io sono sempre con te. È inesistente questa solitudine che tu senti, perché io sono con te. Tu lo sai che puoi venire da me, tu lo sai che nel segreto della mia presenza c'è riposo per te. c'è riparo per te dalla tentazione e dal peccato che vuole confonderti. Fuggi il peccato. Mi trovo solo io in questa situazione? Ah, solo io, va bene. Va bene. Non sono solo, l'ho appena detto. Fuggi il peccato e rifugiati in Dio. Basta a scaricare quello che scarichi, non ti serve. Basta ad andare dove vai, se hai sbagliato dove stai andando. Basta a comprare quello che compri, non ti darà nulla. Basta a vedere quello che vedi, non ti servirà niente. Fuggi, fuggi e rifugiati in Dio. Vivere level up, punto numero 2. Uccidi l'egoismo e vivi nella gioia di dare. Uccidi l'egoismo e vivi nella gioia di dare. Per permettere che la storia della vita di Timoteo potesse diventare influente e potesse prendere autorità su tutte quelle persone greche ed ebree, straniere e gentili, alle quali Dio avrebbe chiamato Timoteo ad evangelizzare, ad influenzare e a guidare, era necessario per lui che si circoncidesse. Al di là di quello che il Concilio di Gerusalemme aveva stabilito, c'era un passaggio fondamentale per Timoteo da dover fare. Sapete, lui non doveva circoncidersi per se stesso, ma lui doveva circoncidersi per tutte quelle persone che avrebbero ricevuto salvezza attraverso la credibilità della sua testimonianza. Di questo stiamo parlando. E io credo che in questo contesto, in questo momento che abbiamo letto di Atti 16, Timoteo ha imparato ad uccidere il suo egoismo. Ha imparato a scegliere di vivere nella gioia di dare. E infatti per questo che Paolo scrive Filippesi e dice: io non ho nessuno di animo pari al suo, che abbia sinceramente a cuore quello che vi concerne. E l'ho provato sulla sua pelle, poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Gesù Cristo. Di cosa parla la storia della tua vita? Parla dei tuoi interessi o degli interessi di Cristo Gesù? E quali sono questi interessi di Cristo Gesù? Questa è una giusta domanda, no? Lui che ha spezzato il suo corpo e ha versato il suo sangue, e oggi vivremo la cena del Signore tra un po', che interesse può avere? Quale può essere l'interesse per il quale Gesù spera, sogna, desidera, prega, vuole che io e te possiamo vivere? È la salvezza delle persone che ci circondano. Timoteo ha dovuto circoncidersi nella carne per rendere credibile la sua testimonianza davanti agli altri. Cosa devi circoncidere tu per rendere credibile la tua testimonianza davanti alle persone che ti circondano? Questa è una bella domanda, che se vogliamo passare a un livello successivo, dobbiamo crederci, dobbiamo farci e dobbiamo porci. Sapete, la verità è che quando sei affogato solo da te stesso, dimentichi quanta bellezza e gioia c'è nel sacrificarti per dare agli altri. Quando siamo presi da tutti i nostri problemi, da tutte le mai una gioia che viviamo, quando tutto è storto e siamo affogati da tutto questo, ci siamo dimenticati. Che bellezza c'è, quanta gioia e ricchezza c'è nel sacrificarci per dare agli altri. Ecco perché la mattina del 22 giugno alle ore 9:30, sabato 22 giugno, io sarò qui con Donatella. Dove è Donatella? Ecco, non ti avevo perso. Sarò qui con Donatella e con il team della Servolution per pulire questo locale. Sapete, io non lo faccio per me, io lo faccio per te, perché ho scelto che è bellissimo sacrificarsi per dare gloria a Dio e perché questa è la mia gioia. Sapete perché io sposto di settimana in settimana queste bellissime, amate, mie sedie rosse? finché morte avrò, le sposterò. Io non le sposto per me, io le sposto per te. Sapete perché sono andato a fare rifornimento di acqua, tè, acqua frizzante, bevande gassate, patatine, tarallini, che altro ho comprato? Caramelle. Così quando noi arriviamo in chiesa, quando tu arrivi in chiesa, hai qualcosa di fresco da bere e qualcosa di stuzzichevole da stuzzicare. Io non l'ho fatto per me, io l'ho fatto per te, perché c'è più gioia nel fare questo. Perché se io mi sono sacrificato, ho avuto gioia in quel sacrificio che ho fatto. E sapete cosa mi fa amare la nostra chiesa tantissimo, che voglio saltare? È che io non sono solo in tutto questo. Ho una schiera di testimoni che con me hanno scelto di settimana in settimana e scelgono di settimana in settimana di uccidere il loro egoismo per vivere nella gioia di dare. Siamo tanti a farlo e questa è la cosa più bella, che mi fa svegliare la mattina e mi fa dire sì, è bellissimo che tu lo fai. Non rimanere fuori da tutto questo. Non rimanere fuori da tutto questo. Non darti un game over dove Gesù ha preparato un level up per te. Non perderti la bellezza e la gioia che c'è nel sacrificarti per dare agli altri. Non perderti questa opportunità. Vivere level up, punto numero 3. Fuggi il peccato, uccidi l'egoismo, punto numero 3. Distruggi il tuo altare e sacrificati per Dio. Distruggi il tuo altare e sacrificati per Dio. Che cosa significa questo? Sapete, molto facilmente, nel nostro percorso di fede con Dio, ci possiamo, possiamo ritrovarci a diventare idolatri. E quindi ci dimentichiamo da dove veniamo, ci dimentichiamo da dove Gesù ci ha tirato fuori, e in un certo senso tutto ci è dovuto. È vero? Non so se avete mai provato voi questa sensazione. E quindi ci barrichiamo dietro quello che facciamo per Dio, ci barrichiamo dietro il nostro ruolo, qualsiasi esso sia, ok? Può essere un capogruppo, può essere un team leader, può essere un supervisore di qualcosa, può essere un leader di un settore, può essere un insegnante al P3 o al P2 o al P1, puoi suonare uno strumento, puoi poter cantare e lodare a Dio. Ci barrichiamo dietro il nostro ruolo e sapete cosa? Neanche a Dio permettiamo di avere più voce in capitolo. È vero? E abbiamo costruito questo altare, no? Ce lo siamo sudati. Io tutto quello che ho fatto me lo sono sudato, ce lo siamo sudati, ce lo siamo meritati e ci siamo dimenticati che non era un ruolo quello che Dio ci stava affidando, ma era una responsabilità. Responsabilità di vita eterna o di morte eterna sulle persone che ci circondano. E sapete, Dio non è interessato ad una performance. A Dio non gli interessa quanto bravo sei nell'interpretare il ruolo che ti ha affidato. Quello accade la notte degli Oscar. Qui non c'è un tappeto rosso che dobbiamo attraversare. Di rosso c'è solo il sangue che Cristo Gesù ha versato. Lo ha versato per me, lo ha versato per te e lo ha versato per tutte quelle persone che ancora non lo sanno, che lui ha versato il sangue anche per loro. Non c'è nessun ruolo da interpretare, ma c'è una responsabilità da afferrare. Non c'è nessun ruolo che dobbiamo interpretare. C'è una responsabilità che dobbiamo afferrare, una responsabilità spirituale sulle persone del tuo gruppo familiare. Una responsabilità spirituale sulle persone del tuo team. Una responsabilità spirituale sulla tua famiglia. Una responsabilità spirituale sulle persone che servono con te nell'area di cui tu sei supervisore. Non metterti sull'altare, in piedi, a guardare tutti dall'alto del sudore della tua fronte e dire che non vanno bene. Sai perché? Perché in ultima analisi, se le cose non vanno bene, a chi Dio ha affidato la responsabilità del tuo gruppo familiare? A chi Dio ha affidato la responsabilità del tuo team che serve con te? A chi Dio ha affidato la responsabilità dell'area che tu supervisioni? Se l'ha affidata a te e non a qualcun altro, un motivo ci sarà. E sapete qual è? Che lui crede in te. Smettila di darti un game over, smettila di decretare un game over su di te e sulle persone che sono con te, perché Gesù crede in te. L'abbiamo anche cantato. Quando io non credevo, credevi in me. Quando io non credevo, credevi in me. Cosa deve succedere per farcelo credere che noi possiamo fare la differenza nel nostro gruppo familiare che Dio ci ha affidato? Cosa deve succedere per farci credere che noi possiamo fare la differenza nel team delle persone che servono con noi, nelle persone che collaborano in quello che noi facciamo per Dio e per la sua Chiesa? Distruggi il tuo altare e sacrificati per Dio. Sapete, Timoteo avrebbe potuto benissimo barricarsi dietro la sua buona testimonianza che tutti i fratelli di Listra e Iconio avevano dato, quindi non era uno, sai, che avevano trovato così, non era il primo che Paolo ha visto e ha detto, beh, questo mi sembra bravo, mo lo porto con me a fare il collaboratore. No. Timoteo avrebbe potuto barricarsi fino a tutto quello che aveva fatto fino a quel momento e rifiutarsi di distruggere il suo altare e perdere tutto e mettersi sulla bocca di questi greci e di questi ebrei che lo avrebbero criticato perché sua madre aveva scelto di sposarsi con un greco e lui non era degno di fare quello che Dio lo aveva chiamato a fare. Lui ha scelto di non barricarsi nel livello che aveva raggiunto, ma ha deciso di sacrificarsi per passare al livello successivo. Ha scelto di sacrificarsi permettendo all'opera dello Spirito Santo di trasformare la storia della sua vita di gloria in gloria. E sapete, Gesù lo mette, dice la stessa cosa con parole diverse. E lo leggiamo in Marco, nel Vangelo di Marco, al capitolo 2, versetto 22. E Gesù dice: nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino fa scoppiare gli otri e il vino si perde insieme con gli otri. Ma il vino nuovo va messo in otri nuovi. C'è un vino nuovo che Gesù ha preparato per la tua vita. Sapete cosa mi ha detto, cosa mi sta dicendo, cosa continua a ripetermi Gesù? Beh, l'estate è scoppiata, facciamo il cambio di stagione. Sì? Io lo so, Antonio, il tuo otre è fantastico. Sei un fantastico otre. Io sono così grato per tutto quello che hai fatto fino ad oggi perché ci ha portato qui, ma ce ne serve uno nuovo. E sai perché? Perché io ho del vino nuovo per te. E per quel vino nuovo tu devi diventare un otre nuovo. Sapete cosa gli ho detto io? Ho detto, Signore, è un po' diverso da quello che io pensavo, questo otre nuovo. Sai, sembra diverso da tutte quelle promesse che tu mi hai sempre fatto. E io non so se lo so fare. Io non so se sarò capace di poterlo fare. Perché così ci sentiamo. E ce lo dimentichiamo. E sapete cosa Gesù mi ha detto? Ti fidi di me? Ti fidi di me? Ed è quello che Gesù ti sta dicendo stasera. Ti fidi di me? E cosa posso rispondere io a colui che ha dato valore e dignità alla storia della mia vita? Cosa gli posso dire? Gli posso dire che non mi fido di lui? No, perché io lo so dentro di me. So che tutto quello che di buono posso trovare in me riguarda lui e non riguarda me. Ci sono nuove abilità da sbloccare. Ci sono nuove abilità da sbloccare pronte per te. Ci sono dei nuovi doni che lo Spirito Santo vuole rilasciare sopra di te. Dono di profezia, dono di guarigione, dono delle lingue. Ci sono doni che lo Spirito Santo vuole fare arrivare alle persone intorno a te e li vuole rilasciare su di te. Ci sono nuovi territori che tu puoi conquistare, nuovi territori che i tuoi piedi, che la pianta dei tuoi piedi possono conquistare, nuovi territori dove il tuo talento e la tua capacità può essere sperimentata, può crescere, può allargarsi, può diventare più grande. Abbiamo bisogno di un level up. Se vogliamo che la storia della nostra vita passi di gloria in gloria, dobbiamo superare il livello dove ci troviamo e passare al livello successivo. Sì? Alziamoci in piedi. Stiamo per vivere la cena del Signore. E sapete, io avrei potuto fare un appello, saremmo potuti venire avanti, qualcuno avrebbe potuto pregare per te, ma sai cosa è più importante? Che noi impariamo ad andare nel segreto della presenza di Dio da soli. E io voglio incoraggiare noi a vivere questo momento della cena del Signore che Gesù ci ha lasciato, per ricordarci che Lui ha spezzato il suo corpo per noi, che Lui ha versato il suo sangue per noi e ha detto: ricordatevi di questo e fatelo fino a quando io non ritornerò. E io voglio incoraggiare noi a vivere questo momento per prendere decisioni, per prendere posizioni. E tu conosci il peccato dal quale devi fuggire. Nessuno di noi è escluso. Tu sai qual è quel peccato che continui a resistere e a combattere, ma che devi semplicemente scappare via. Non so se ho usato bene i verbi, però avete capito. Tu conosci il tuo proprio interesse che continui a mettere avanti. Tu conosci dove sei egoista, tu sai l'orgoglio che devi uccidere. Tu conosci il tuo altare, quello dove ti sei barricato, dove non fai entrare nessuno. Tu conosci il tuo altare che devi distruggere. Questa sera, durante il momento della cena del Signore che stiamo per vivere, prendi posizione. Prendi quel pane, prendi quel vino, torna al tuo posto, siediti e vivi quella tua resa davanti a Dio. E se non sei ancora battezzato in acqua da adulto e non partecipi alla cena del Signore, vivi questo momento comunque, alla sua presenza. Magari il Signore ti parlerà e ti dirà: ehi, forse ti puoi battezzare, forse non è così difficile, io non mi sono vergognato di te. Tu puoi non vergognarti di me, perché io ti amo, e puoi prendere quella decisione. Sapete come l'ho presa io? Ero in chiesa, ovviamente, e a un certo punto il pastore Pinuccio citò il verso di Geremia 29:14, dove diceva che parlava del popolo di Israele, e Dio diceva: voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore, ed io mi lascerò trovare da voi. E in quel momento io ho detto: è questo quello che mi manca, non ti sto cercando con tutto il mio cuore, cosa devo fare per cercarti con tutto il mio cuore? E il pastore quel giorno diede la notizia dei battesimi per chi voleva battezzarsi, e non c'era il ritiro, non c'era il corso il percorso 1, non c'era niente. Io dissi: ok, mi battezzo. Non avevo capito niente, forse non ho ancora capito niente. Ma è così facile, ed è così difficile, è così semplice, ed è così complicato, ma basta che Gesù te lo dice. Fatelo dire da Gesù stasera. Sì? Fatti dire come fuggire, fatti dire come uccidere quello che ti separa dal vivere la vita piena che Lui ha per te, fatti dire come distruggere quell'altare, fatti dire qual è il level up che ti aspetta per andare al livello successivo. Sì? Preghiamo? Signore Gesù, grazie per il pane e per il vino che stiamo per mangiare. Grazie perché sono il simbolo del tuo corpo che è stato spezzato per noi e del tuo sangue che è stato versato per noi. Grazie, Signore Gesù, perché sei tu che hai spezzato il tuo corpo affinché noi non spezzassimo il nostro. Sei tu che hai versato il tuo sangue affinché noi non versassimo il nostro sangue. Signore, noi questa sera vogliamo prendere responsabilità di tutto questo e vogliamo benedire quel pane e quel vino che stiamo per mangiare e per bere, dichiarando che siamo riconoscenti a te, Signore Gesù, e che ti aspettiamo. Aspettiamo che tu possa ritornare e vogliamo vedere il tuo regno avanzare attraverso della nostra vita. Gesù, aiutaci. Aiuta ognuno di noi a fare in modo che la storia della nostra vita possa passare di gloria in gloria per manifestare il tuo regno alle persone che ci circondano. Ti amiamo, Signore Gesù. Amen. Mentre viviamo un momento di adorazione, possiamo partecipare per chi partecipa alla cena del Signore e venire avanti, e possiamo vivere un momento di preghiera e di arresa a Dio anche per chi non partecipa.